L'arrivà, dimmi dov'è l'arrivà. Aria ferma sul filo del mare, così nero che io non so più. E dove il nord? Dove? Verso casa, da qualche parte laggiù, piove, scompare già l'orizzonte. Che ci faccio qui, in questo mare? Laggiù c'è Cavour, il vento ti sorprende a Cavour, la notte ti spaventa. Quanto mare, straniero e misterioso d'America, così lungo sull'orizzonte, che ci faccio qui mentre piove sulle vele? Qua giù c'è mentre a casa c'è qualcuno che mi aspetta, aspetta, aspetta me, aspettami, aspettami ancora. Aspettami, aspettami ancora. Aspettami, aspettami, aspettami ancora. Aspettami, aspettami, aspettami. Aspettami, aspettami, aspettami ancora.